Guai ad Ariel, ad Ariel, città in cui si accampò Davide. Aggiungete anno ad anno, le feste compiano il loro ciclo. Metterò Ariel alle strette, ci sarà lamento e gemito, e diventerà per me come un Ariel. Mi accamperò contro di te come Davide, ti assedierò con trincee ed innalzerò fortezze contro di te. Abbattuta parlerai dalla terra e dalla polvere verrà sommessa la tua parola. Sembrerà di un fantasma la tua voce dalla terra e dalla polvere bisbiglierà la tua parola. La moltitudine degli stranieri sarà come polvere minuta e la turba dei tiranni come pula dispersa. Ma all'improvviso, sull'istante, tu sarai visitata dal Signore degli eserciti con tuoni, terremoti, grande fracasso, con uragano, tempesta e fiamma di fuoco divorante. Come un sogno, come una visione notturna, sarà la moltitudine di tutte le nazioni che marceranno contro Ariel, di tutti i suoi attaccanti, delle torri di quelli che l'assediano. Sarà come quando l'affamato sogna di mangiare, ma si sveglia ed il suo stomaco è vuoto. E come quando l'assetato sogna di bere, ma svegliato è stanco e la gola è asciutta. Così avverrà la moltitudine delle nazioni che combattono contro il monte Sion. Fermatevi e stupite. Chiudete gli occhi e rimanete ciechi. Inebriatevi, ma non di vino, traballate, ma non a causa della bevanda inebriante. Perché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi ed ha velato le vostre teste. Ogni visione sarà per voi come le parole di un libro sigillato che si dà a uno che conosca la scrittura dicendo «Leggi questo», ma egli risponde «Non posso perché è sigillato». Allora si dà il libro a qualcuno che non sa leggere dicendo «Leggi questo», ma egli risponde «Non so leggere». Dice il Signore: «Poiché questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora solo con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me ed il suo culto verso di me non è altro che un comandamento di uomini che è stato loro insegnato, perciò ecco, continuerò a compiere meraviglie e prodigi per questo popolo. Perirà la sapienza dei suoi sapienti e scomparirà l'intelligenza degli intelligenti. Guai a quanti si nascondono dinanzi al Signore per dissimulare il loro progetto, mentre il loro operato avviene nel segreto e dicono: «Chi ci vede? Chi ci conosce?» Oh, la vostra perversità! Forse che il vasaio è considerato pari all'argilla? Può dire l'opera a chi l'ha fatta: «Non mi hai fatto?» E un vaso può dire al vasaio: «Non è intelligente?» Ancora un po' di tempo, il Libano non si cambierà in giardino? Ed il giardino sarà considerato una foresta. In quel giorno i sordi intenderanno le parole del libro. Uscendo dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili gioiranno ancora nel Signore, ed i poveri esulteranno nel Santo d'Israele. Perché il tiranno non sarà più, e il derisore sparirà. Saranno sterminati quanti tramano l'iniquità, che fanno peccare gli uomini in parole, tendono un tranello al giudice alla porta, e quelli che fan torto al giusto per un nulla. Perciò così parla il Signore, il Dio della casa di Giacobbe, colui che ha riscattato Abramo. D'ora in poi non sarà confuso Giacobbe. La sua faccia non impallidirà più, perché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani in mezzo a loro, santificheranno il mio nome. Santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti fuorviati acquisteranno intelligenza ed i brontoloni apprenderanno la dottrina.